la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, buon inizio di settimana. In questo lunedì 5 maggio, sono le 16.35, primi 42 secondi, siamo in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. E visto che siamo all'inizio di settimana, anche auguri a chi si chiama Irene, oggi è Sant'Irene da Lecce, quindi auguri anche a tutte le Irene in ascolto. Vado subito al tema di giornata, di la verità mi sono dovuto frenare perché avrei voluto parlare di calcio, ma sono già molte le trasmissioni di Radio 24 che lo hanno fatto, quindi me ne astengo per la rabbia e l'indignazione di questi giorni. Però quante volte, perché non si può fare come ai vecchi tempi di Pompei, cioè le curve dove non ci sono gli abbonamenti nominali, bisogna decidersi, secondo me, ad assumere un atteggiamento durissimo di un anno, due anni di stop per molte delle società che continuano ad avere rapporti di questo tipo, perché se non si fa così temo che non se ne esca. Però questa è la mia opinione personale. No, io vado al tema del giorno perché oggi parliamo di un imprenditore che negli ultimi anni, come tantissimi altri di cui abbiamo parlato, continuate a scriverci, tra l'altro versione di Oscar @radio24.it, è stato con la sua impresa ahimè travolto da difficoltà perché non gli hanno pagato oltre 200.000 euro di fatture e quindi si è trovato poi un debito che cresceva sempre con Equitalia di 174.000 euro. Ma questo imprenditore ha deciso di fare quello che secondo me lo Stato non ha fatto. Quante volte ci siamo occupati? Una volta ho letto anche più di un anno fa l'elenco di tutti quelli che si erano tolti la vita quell'anno e continuato a pensare e a ripetere che per me era uno scandalo che lo Stato mai avesse partecipato a un esequie, ai funerali di chi si levava la vita, fosse un lavoratore dipendente, fosse un disoccupato che aveva perso il lavoro, fosse un imprenditore che si impiccava o si sparava. Allora, questo imprenditore, segnalatoci dalla Prealpina, quindi stiamo parlando della Varesotto come zona, ha deciso, per dare testimonianza pubblica del fatto che lui non ci pensa nemmeno a spararsi o a impiccarsi, in alcuni locali di sua proprietà, di realizzare un museo della crisi dedicato ai nomi e ai ricordi di coloro che si sono tolti la vita. E quando io ho letto sulla Prealpina, poi anche sul Fatto Quotidiano, la ripresa di questa notizia, che adesso lui ci spiegherà meglio, anche perché per esempio si è beccato una segnalazione per vilipendio alle istituzioni, ecco, altro che vilipendio alle istituzioni, la mia opinione è che queste sono le iniziative pubbliche che magari lo Stato, invece di fare tante stupidaggini, dovrebbe riconoscere e sostenere, e che comunque secondo me hanno bisogno dell'aiuto di tanti. Adesso gli chiederemo come fare ad aiutarlo, perché secondo me dei luoghi aperti al pubblico, dedicati a coloro che purtroppo sono stati travolti, sono tolti la vita per la crisi, è una maniera civile di ricordare non solo loro, ma di confermare a tutti noi che questo non può, non deve avvenire, e che la ripresa italiana in qualche modo bisogna costruirla con meno tasse, con più investimenti. Tenete conto che stamattina l'Istat ha gelato le attese di crescita del governo, ha detto più 0,6% quest'anno, qui continuiamo, malgrado tutto quello che si dice, gli annunci di rivoluzione, a crescere con il contagocce, quindi col cavolo che riprendiamo occupazione e reddito che abbiamo perso. Questa è la prospettiva. Diteci allora come la pensate di fronte a un imprenditore in enorme difficoltà che decide di suo di aprire un museo della crisi dedicato alle vittime. E pensate che all'inizio, quando parlavamo delle vittime, tanti mi dicevano: ah, sei un ciurmadore perché nelle statistiche non si vede che c'è l'aumento. Comunque, con certezza di suicidi dovuti alla crisi, con certezza assoluta, assodata per quello che è avvenuto e per le testimonianze che hanno reso fino alla fine chi sarà levato la vita, nel 2013 sono stati 149. Nei primi 4 mesi del 2014 sono già 64, quindi con questo ritmo aumentiamo anche il record del 2013. Allora, secondo me è una strage e va ricordata. Allora, grazie innanzitutto per essere qui con noi oggi pomeriggio a colui che ha dato vita a questa iniziativa che fa molto discutere nel suo paese. Stiamo parlando di Lonate Ceppino, in provincia di Varese, e questo artigiano, ex imprenditore, titolare di un'azienda che si chiamava Cremig Impianti SRL, il creatore del Museo della Crisi, si chiama Luigi Sciancalepore. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, innanzitutto ci racconti un secondo, ohimè, della crisi della sua impresa. Lei aveva un'impresa artigiana che era attiva in che settore? Ma era un'impresa artigiana attiva nel settore termoidraulico, sì. Lavorando per circa 10 anni con le Ferrovie dello Stato, non avendo a che fare con imprese, ma solo con enti pubblici. Aia, che quindi non la pagavano ordinariamente. Ma i contratti parlavano sempre di 30, 60, massimo 90 giorni, ma erano sempre 180, 150, 220 e via così. E quando ha iniziato a crearsi il problema, diciamo, insolubile? L'insolubile è cominciato nel 2009, maggio 2009, è cominciato a non pagare più la ferrovia perché c'era stata un'inchiesta giudiziaria all'interno e erano bloccati i pagamenti. Dopo aver chiamato Striscia la Notizia, fatto scrivere quotidiani, Corriere della Sera e giornali locali, ci hanno contattato da Milano dicendo, dopo 4-5 mesi, dicendo di fare una trattativa, un concordato, pagandoci un po' e poi eventualmente a inchiesta chiusa con il saldo, ma tutto questo non è avvenuto. E quindi? Quindi nel 2010 ci danno solo 100.000 euro da un debito stimato e controllato con uffici contabili 275.000 euro di contabilità fatture emesse a carico delle Ferrovie dello Stato e mai pagate. Nel 2010 ci contattano, ci dicono questi sono 100.000 euro per ora, gli altri li paghiamo successivamente con i seguenti lavori da vedere e da notificare se erano giustificati, se erano contabilità e tutto in regola. Ma il fisco nel frattempo? Il fisco nel frattempo dà una fattura di 35.000 euro, l'Equitalia, Agenzia delle Entrate, Beffe, la Mastra Pasqua, come li vogliamo chiamare, non voglio aggiungere altro. Intanto da 30.000 euro sono cominciati a venire fuori 40, poi 46, poi 96, poi si sono aggiunti i contributi operai in cui io non potevo più pagare, avendo 12 dipendenti non riuscivo più a pagare, e così ho deciso a marzo del 2010 di licenziare 12 dipendenti, dove fu anche una trasmissione televisiva alla RAI, la stessa cosa, fu nominato la ferrovia, ma tutto questo non è mai venuto a galla, nessuno ci ha mai contattato, siamo stati a Roma anche a parlare con i vertici delle ferrovie, non c'era Mauro Moretti ma c'era il suo vice, che tutti quanti si erano promesso di aiutarci, di darci lavoro e di darci qualcosa, ma non è mai stato vero quello che hanno detto. Quindi i crediti delle ferrovie non sono valsi a evitare quindi l'inevitabile per le richieste di Equitalia. Allora, di fronte a questo sviluppo, parentesi, ringrazio gli ascoltatori che dicono di risparmiarsi la morale sul calcio malato del signor Giannino, per me i malati sono loro. Si beccassero queste robe, però purtroppo poi la gente muore, quindi chi risponde con sufficienza su questo secondo me è un imbecille, scusi, chiuso la parentesi, non ci torno più sopra. Quando le è nata l'idea di questo museo nel suo paese? Ma guarda, questo qua era un po' di mesi che andava avanti, diciamo da gennaio che avevo messo in testa di aprire un museo per ricordare le vittime, imprenditori, artigiani, pensionati, cassi integrati, tutti quelli che facevano parte di questa crisi economica. Poi a marzo, il 10 marzo, l'avevo già allestito tutto e l'avevo oscurato per non far vedere tutta l'apparenza del lavoro all'interno. Il 15 marzo abbiamo deciso di aprire questo museo pubblicamente, dove abbiamo messo in pratica manichini, vestiti da Monti, Renzi, Letta, presidente Giorgio Napolitano, Beffe, la Mastra Pasqua. Cioè lei ha inscenato i personaggi della crisi, insomma. Ci sono tutti i personaggi della crisi, cominciando dal Presidente della Repubblica, arrivare a Mastra Pasqua, compreso i vecchi con la legislatura 2008-2011 e quelli dal 2011 in poi al 2014, tutti e quattro i presidenti che erano, sono passati in pratica, i tre presidenti del Consiglio con Presidente della Camera e Presidente del Senato. E a quel punto Belgrado, l'articolo 21 sul diritto della piena libertà di espressione delle opinioni, i carabinieri l'hanno segnalata alla Procura di Varese per vilipendio alle istituzioni. Sì, sì, sì, questo è stato la più grande cosa che è successo, purtroppo si va sempre a rincorrere sulle piccolezze, poi quando si fa dei fischi al lino di Mamelli o altre cose non vengono messe in considerazione, perché queste considerazioni sono masse quelli che fanno i fischi. Io, essendo unico imprenditore e unico in collaborazione con mia moglie aver messo in punto questo museo, purtroppo mi trovavo fuori in Veneto per solidarietà ad altri imprenditori, altri amici che avevano difficoltà, con l'Equitalia poter risolversi i problemi, e allora ho dimenticato erroneamente una cordicina sulla bandiera, dove mi sono beccato una denuncia per vitiperio alle costituzioni. Per vitiperio alle istituzioni. Allora, noi adesso abbiamo i 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo subito con Luigi Sciancalepore, ex imprenditore, a parlare di questa sua iniziativa che secondo me merita sostegno, il Museo della Crisi, dedicata alle vittime, a coloro che sono levata la vita per la crisi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.47, primi e 5 secondi di questo lunedì 5 di maggio, e con noi Luigi Sciancalepore, ex imprenditore, ideatore e creatore di questo Museo della Crisi a Lonate Ceppino Varese, che come avete iniziato a sentire dalle sue parole sin dall'inizio gli ha attirato polemiche invece che sostegno. Io vi chiedo se volete chiamarci all'800 24 00 24, a dirci se vi sembra una buona idea, una pessima idea, se non vi sembra giusto onorare mettendoli tutti in fila, ricordandone le storie, anche coloro a cui il pubblico invece dà solo oblio, a cominciare dalle istituzioni, e chiamateci, diteci com'è la pensate. Nel frattempo alcuni degli ascoltatori hanno mandato dei messaggi, dei quali innanzitutto alcuni dicono come nell'elenco di Luigi Sciancalepore dei responsabili politici e istituzionali manca Berlusconi. Adesso glielo chiediamo se c'è o non c'è Berlusconi, ma altri messaggi dicono, ne leggo uno perché ne sono arrivati parecchi su questo, ma visto l'illustre precedente di chi, avendo evaso molti milioni di euro, si è beccato una condanna che sconta con una pena accessoria ai servizi sociali, per coloro che non sono riusciti a pagare una cartella e vantano crediti come l'imprenditore vostro, non si potrebbe saldare il conto attraverso i servizi sociali? Ecco, questa è una bella riflessione dal mio punto di vista, perché fa capire la simmetria con cui siamo alle prese nel nostro paese quando si tratta di giustizia tributaria, e in quel caso non c'è dubbio che la condanna accessoria a 4 ore settimanali di servizi sociali per Silvio Berlusconi strida e faccia a pugni con quanto abbiamo innumerevoli molte ricordato, e ce l'ha ricordato anche Luigi Sciancalepore, di quello che è capitato a migliaia di imprese nel nostro paese che hanno dovuto chiudere di fronte alle cartelle e alle richieste ultimative e coattive del fisco, di fronte a crediti che loro vantavano e che non venivano onorati, magari proprio dallo stesso Stato che li faceva chiudere in questo modo. Poi uno va a vedere l'altro condannato per milioni e milioni di euro, 4 ore alla settimana. Certo c'è una certa, un certo stridore, per così dire, e molte vite che su questo hanno deciso di lasciarci, purtroppo. Allora, Luigi, ma lei la cosa di Berlusconi, il ritratto di Berlusconi, il suo manichino, c'era o non c'era nel museo? Guarda, io Berlusconi l'ho messo anche con la cordicina, non solo manichino, ecco. Non solo fotografia, sia lui che il suo caro amico Bossi, perché sono l'ideatore della rovina dell'Italia, perché nel 2003 hanno inventato questa società di riscossione Equitalia, sarebbe Equi a immazzare, non Equitalia. E sono stati, sì, sono messi anche loro. Ci sono anche loro, no, ma questo era per non vengono nominati, calmare, ma sono messi tutti e due. Chi pensava invece che fosse stata dimenticanza. No. Anche se sono tifosi del Milan, non lo metto, ma lo metto. Vabbè, ma che il calcio è un'altra cosa. Ma che cosa è accaduto poi il 25 aprile? Ma il 25 aprile, ho detto, io il 23 stavo in Veneto, a Treviso, all'Agenzia delle Entrate, all'Equitalia, per un imprenditore, eccetera, che aveva lo stesso problema mio, dove siamo andati a parlare un attimo. Il 24 pomeriggio mi chiamano i carabinieri, mi dicono questo museo non è a regola d'arte, non va bene, dovremmo oscurarlo perché c'è una denuncia. Il 25 mattina hanno fatto la festa di commemorazione della liberazione, il 25 aprile, di cui c'erano i partigiani, e posso, anche se c'è lezioni in corso, partigiani e PD, che mormoravano dalla corona ai caduti, certo, a quello che sono. Sì, onorava la festa della liberazione. Ecco, in quel punto là si sono affacciati a notare il museo, dove hanno visto questa cordicina col manichino attaccata erroneamente alla bandiera, hanno chiamato subito immediatamente le forze dell'ordine, facendolo oscurare direttamente dai carabinieri con dei panni neri, eccetera. Vabbè, e quindi è stato un 25 aprile molto discutibile, perché non riesco a capire che cosa c'entri il vilipendio delle istituzioni con il ricordare i responsabili di tutti i diversi governi, di qualunque colore che si siano succeduti in questi anni di fronte a quello che è avvenuto, ma questa è la mia personale opinione. Allora, in questo museo come si attua, come si manifesta il ricordo di quelli che si sono levati la vita? Ma io lo ricordo con i fiori, i lumini, la sera mi prendo a accendere i lumini, metto dei fiori vicino, ho le luci belle soffuse in modo da poter avere come se fosse, vengono ricordati dalla mattina alle 8, c'è un po' di gente che va, viene, qualcuno che va, qualcuno che critica, c'è il buono, c'è il cattivo, dove si fanno le foto con la Boldrini, dove si fanno le foto con Monti, c'è qualcuno che ha fatto le foto con il presidente Letta o con Renzi o qualcuno con Mastrapasqua, dove abbiamo messo un dipendente dell'Electrolux, non è che abbiamo fatto solo questo, abbiamo preso anche dipendenti dell'Electrolux che sono a rischio. Dell'azienda in crisi, sì. Sì, abbiamo preso questi qua, li abbiamo messi insieme con Monti oppure insieme con Mastrapasqua, con Befera, i sindacati, abbiamo fatto un manifesto per i sindacati, per la Camussi, per tutti quanti, i tre potenti sindacati, dove abbiamo fatto un manifesto a morte, nel senso col lutto, perché per noi i sindacati non esistono. Io ho sempre detto nel 71 che la rovina dell'Italia sono stati i sindacati, al di là di quello poi ci sono altre forme in cui andiamo a ricordare questi benedetti amici e questi tutti quelli che sono morti, dallo giovane. Stamattina è morto un altro 34 anni, un disoccupato, un geometra vicino a Venezia si è suicidato, si è sparato di fronte alla moglie, un altro a Treviso si è ammazzato con un fucile, sì, un muratore. Con la fucilata, sì, esattamente. Senta, c'è chi lo accusa, accusa lei Luigi, di fare questa cosa per una specie di... così, di ansia di protagonismo, per fine sui giornali e così via. Lei cosa risponde a chi le fa questa cosa? No, guarda, questa è una cosa sola così, per ricordare i colleghi imprenditori, non mi interessa politicamente, io con la politica non ho niente a che vedere, è antipolitica. Noi siamo un movimento, mi sono creato un movimento di 5-6 persone, non abbiamo di fronte a noi, a fianco a noi, al nostro locale, un schieramento politico, lista civica, ma non abbiamo a che fare, non siamo intromessi nella politica, non ci interessa, è una cosa solo per ricordare le nostre vite e ricordare allo Stato italiano che gli imprenditori esistono e sono quelli che portano avanti le imprese e quelli che portano avanti le tasse se ci lasciano lavorare, se si abbassano il fisco, se si abbassano un po' i contributi, non ci saranno più suicidi imprenditori o artigiani o pensionati eccetera, quelli che ci sono. Ma i familiari non l'hanno indotto un po' a desistere dicendo ci attiriamo altre polemiche, caro Luigi, lascia perdere, no? No, allora, noi abbiamo avuto una manifestazione a Milano il 4 aprile ricordando le vittime, la fiaccolata a Milano il 4 aprile in memoria e di cui erano presenti i familiari delle vittime, anche la signora di Bologna, la signora di Bologna dove suo marito si è dato fuoco vicino alla chiesa del Prato, dove è stata costituita una targa in memoria di suo marito, di cui non abbiamo fatto in tempo a invitarli perché sta manifestazione è nata tra il 30 e il 4, mentre si veniva da Bologna con gli altri a una manifestazione di Bologna, si è deciso di fare questa manifestazione qua per ricordare le vittime, ma la prossima, l'annuncio già che sarà per fine maggio, i primi mese prossimo ci saranno, che abbiamo già chiesto la loro collaborazione, tutti i familiari delle vittime che circondano all'intorno del Varesotto, Piemonte e Veneto. Questa è un'ottima idea, secondo me, mettere insieme tutti i familiari degli scomparsi, nella speranza che qualcuno poi delle istituzioni reputi anche suo dovere fare qualcosa di analogo, perché ripeto, l'assenza dei funerali è sempre stata una cosa per me incomprensibile. Sentiamo, abbiamo un ascoltatore, Giovanni, che ci chiama da Catanzaro. Prego Giovanni. Sì, Giannino, buonasera. Buonasera, prego. Buonasera. Io intanto ho la mia solidarietà all'amico imprenditore. Io sono pure un imprenditore e gestisco e lavoro prevalentemente nel privato. Ora rubo 10 secondi per dire che nelle varie sue documentazioni che ha ricevuto in questi periodi, di sicuro ha ricevuto una proposta di legge che è la numero 3804, per motivi di par condicio non faccio i nomi dei presentatori, ed un manifesto Libera l'impresa. Cioè, ora il ragionamento è un pochettino più complicato di quanto potesse sembrare a primo acchito, e mi voglio riportare un po' a dichiarare quello che è lo stato delle difficoltà che si hanno più che nel settore pubblico, nel settore privato, dove il credito è incerto. Ciò vale a dire che non è utilizzabile in banca, come non è utilizzabile nemmeno a scriverlo nei bilanci, perché non serve. Dove si va da non 200 giorni o 180 giorni, ma si va dopo 18 anni, dopo 20 anni. Attenzione, il problema reale definiamolo monte debitorio verso Equitalia, sì, nasce dal settore privato. Il settore privato che non ha possibilità nemmeno di accesso al credito, perché il problema Equitalia diventa di credito. Senza la garanzia pubblica che c'è nel caso dei debiti commerciali pubblici certificabili, senza garanzia pubblica non si può fare lo sconto in banca, anche se molte banche prima della crisi in realtà risconto lo facevano. Questo è un aspetto fondamentale e ringrazio Giovanni di avercelo ricordato. La catena dei cattivi pagamenti nel privato, e qui ci sono iniziative, ne riparleremo. Per esempio c'è un'iniziativa a Milano che sta nascendo per un albo che garantisce e autocertifica la regolarità dei pagamenti tra privati, ma su questo ne parleremo in un'altra trasmissione. Io ringrazio intanto Luigi Sciancalepo, ex imprenditore che nel suo paese Renato Ceppino ha posto una risposta personale a quello che le istituzioni non fanno: ricordare tutte le vite della crisi, e torneremo a parlare con lui nelle prossime manifestazioni con tutti i familiari di chi purtroppo si è tolto la vita. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.